Capitolo 18. Il salvataggio. Le grandi cose della vita sono sempre intrecciate a quelle piccole. A prima vista si sarebbe potuto pensare che la decisione del primo ministro canadese di fermarsi anche sull'isola di Prince Edward per tenere un comizio politico c'entrasse poco o niente con la vita e il destino di Anna Shirley di Green Gables. Invece non andò così. Era gennaio quando il primo ministro fece tappa sull'isola nel suo giro di propaganda elettorale, per parlare ai suoi sostenitori e pure agli oppositori che avevano deciso di partecipare al grande comizio di Charlottetown. La maggior parte degli abitanti di Avonlea in politica stava dalla parte del primo ministro. Per questo, quasi tutti gli uomini e un certo numero di signore erano andati in città, a 30 miglia di distanza, la sera dell'incontro pubblico. Fra loro c'era anche la signora Rachel Lind, che era una militante appassionata e non si sognava neanche lontanamente di rinunciare a un comizio, sebbene fosse della parte avversaria. Quindi si recò in città portandosi dietro il marito, Thomas, si sarebbe reso utile badando ai cavalli, e Marilla Cuthbert. Anche lei nutriva qualche interesse per la politica e poiché pensava che quella probabilmente sarebbe stata la sua unica occasione di vedere un primo ministro in carne e ossa, aveva accettato volentieri l'invito e aveva lasciato Anne e Matthew a occuparsi della casa finché non fosse tornata il giorno dopo. Perciò, mentre Marilla e la signora Lind si divertivano alla manifestazione, Anne e Matthew avevano l'accogliente cucina di Green Gables tutta per loro. Nell'antiquata stufa Waterloo il fuoco ardeva vivace e meravigliosi cristalli di ghiaccio splendevano sui vetri delle finestre. Dopo essersi messo comodo sul divanetto, Matthew sonnecchiava sul Farmer's Advocate, mentre Anna, seduta al tavolo, faceva i compiti con accanita determinazione, anche se continuava a lanciare occhiate bramose verso la mensola dell'orologio, dove aveva appoggiato il nuovo libro che Jane Andrews le aveva prestato proprio quel giorno. Jane le aveva garantito che le avrebbe procurato brividi senza fine, o qualcosa del genere, e ad Anna prudevano le mani dal desiderio di prenderlo, aprirlo e cominciare a leggere. Il che però avrebbe assicurato il successo di Gilbert Blythe il mattino dopo. Perciò girò le spalle alla mensola e si sforzò di fingere che quel libro non ci fosse. Matthew, tu hai mai studiato geometria quando andavi a scuola? Beh, ecco, no, rispose lui, riscuotendosi di soprassalto dal suo dormiveglia. Peccato, ci speravo, sospirò Anna. Almeno adesso potresti provare compassione per me. Non puoi compiangermi fino in fondo se non sai cosa significa studiare una materia del genere. Sta diventando una nube nera che proietta la sua ombra su tutta la mia vita. Oh, Matthew, in geometria sono davvero una capra. Beh, ecco, non saprei. A me sembra che tu vada bene in tutte le materie, disse l'uomo cercando di essere rassicurante. L'altro giorno a Carmody ho incontrato il signor Phillips nel negozio di Blair e mi ha detto che sei l'allieva più intelligente della scuola e che fai progressi ogni giorno. Rapidi progressi sono state le parole esatte. Qualcuno parla male di te di Phillips e sostiene che non sia un granché come insegnante, ma per quanto mi riguarda è un tipo a posto. Matthew avrebbe definito a posto chiunque facesse un complimento ad Anna. Io dico che in geometria potrei andare molto meglio se solo lui non continuasse a cambiare le lettere, si lamentò la bambina. Ogni volta imparo a memoria formule e definizioni, ma poi quando scrive i problemi alla lavagna, il maestro mette sempre lettere diverse da quelle del libro e io faccio confusione. Un insegnante non dovrebbe essere così subdolo, no? Comunque, adesso stiamo studiando agraria e finalmente ho scoperto cos'è che fa diventare rosse le strade da queste parti. È un gran sollievo, sai? Chissà se Marilla e la signora Linde si divertono. La signora Linde dice che il Canada sta andando in malora per come sono gestite le cose a Ottawa e che gli elettori dovrebbero pensarci e tenerne conto. Dice anche che se le donne potessero finalmente votare ci sarebbero notevoli miglioramenti e anche in fretta. Tu per chi voti, Matthew? Ma per i conservatori, ribatté l'uomo prontamente. Votare il partito conservatore era una questione di principio per lui. Allora sono conservatrice anch'io, dichiarò Anna. Sono contenta perché alcuni ragazzi della scuola sono liberali. Scommetto che vale anche per il signor Phillips, visto che il padre di Prissy Andrews vota il Partito Liberale. E Ruby Gillis mi ha detto che quando un uomo corteggia una ragazza deve avere le stesse idee religiose di sua madre e quelle politiche di suo padre. Secondo te è vero, Matthew? Beh, ecco, non saprei, esitò lui. Tu l'hai mai corteggiato una ragazza, Matthew? Ecco, no, credo proprio di no, rispose l'uomo che poco ma sicuro non ci aveva mai neppure pensato. Anna si mise a riflettere con il mento tra le mani. Però deve essere interessante, non credi? Ruby Gillis dice che da grande vuole avere un mucchio di corteggiatori per tenerli tutti sulla corda e farli impazzire per lei. Ma secondo me sarebbe troppo faticoso. Io preferisco averne uno solo, ma per bene, uno con la testa sulle spalle. Ruby Gillis sa tante cose sull'argomento perché ha diverse sorelle più grandi e la signora Linde dice sempre che le ragazze Gillis vanno a ruba. Il signor Phillips va a trovare Prissy Andrews quasi ogni sera. Dice che è per aiutarla a studiare. Ma anche Miranda Sloan sta studiando per entrare alla Queen's Academy e secondo me avrebbe molto più bisogno di aiuto di Prissy perché è meno sveglia di lei. Ma il maestro non va mai a farle lezione di sera. A questo mondo ci sono parecchie cose che non capisco tanto bene, Matthew, sai? Beh, ecco, non sono certo di capirle nemmeno io, ammise lui. Adesso mi conviene finire i compiti. Anche perché ho deciso di non aprire il nuovo libro che mi ha prestato Jane fino a che non avrò terminato tutto. Però è davvero una tentazione quasi irresistibile, Matthew. Anche se sto girata, mi sembra di vederlo lo stesso. Jane mi ha raccontato che l'ha fatta piangere fino a star male quel libro. Io adoro i libri che fanno piangere. Va bene, lo porto in soggiorno, lo chiudo nella credenza delle conserve e consegno a te la chiave. E tu non me la devi restituire finché non ho finito i compiti, Matthew, neanche se mi butto in ginocchio a supplicarti. È facile dire che si può resistere alle tentazioni, ma è molto più facile se non hai la chiave. Poi scendo in cantina a prendere qualche mela renetta. Che ne dici, Matthew? Ti va una mela? Beh, ecco, non so, forse, mormorò l'uomo che non mangiava mai le renette, ma sapeva che erano le mele preferite della bambina. Proprio mentre Anna risaliva allegramente dalla cantina con un vassoio pieno di mele, sulle assi gelate della veranda si sentì uno scalpiccio precipitoso. Un secondo dopo la porta di servizio si aprì di colpo e Diana Barry fece irruzione in cucina. Era pallidissima, aveva il fiato corto per la corsa e uno scialle che le copriva alla belle meglio la testa. Per lo spavento Anna mollò di colpo tutto ciò che aveva in mano. Il piatto, le mele renette, la candela rotolarono giù per la scala e furono ritrovati in cantina da Marilla il giorno dopo in una piccola pozza di sego fuso. La donna raccolse tutto, ringraziando il cielo che non fosse scoppiato un incendio. «Oh, Diana, cosa c'è?» esclamò Anna. «Finalmente tua madre ha cambiato idea!» «Anna, ti prego, devi venire subito!» rispose Diana agitata. Minnie May sta malissimo. Mary Jo dice che ha laringite difterica, però i miei genitori sono in città e non c'è nessuno che possa andare a chiamare il dottore. Minnie May sta davvero male e Mary Jo non sa più cosa fare. Oh, Anna, ho tanta paura. Matthew prese berretto e cappotto, passò davanti a Diana e scomparve nell'oscurità del cortile, senza dire una parola. È andato a bardare la cavalla per correre a Carmody a chiamare il dottore, spiegò Anna, prendendo a sua volta la giacca. Lo so, anche se non me l'ha detto, Matthew e io ci somigliamo e so sempre cosa pensa, senza bisogno che parli. Dubito che troverà un dottore a Carmody, singhiozzò Diana. So che il dottor Blair è andato in città e di certo ci sarà andato anche il dottor Spencer. Mary Jo non ha mai visto nessuno con la laringite difterica e anche la signora Linde è via. Oh, Anna! Non piangere, Diana, la consolò l'amica. Lo so io cosa bisogna fare. Non dimenticare che la signora Hammond ha avuto 3 coppie di gemelli. Quando ti occupi di 6 bambini contemporaneamente ti fai un sacco di esperienza. Quelli si prendevano la laringite difterica di continuo. Aspetta, prendo la bottiglia dello sciroppo di Pekakuana. Magari in casa non ne avete. Dai, andiamo. Le due bambine corsero fuori tenendosi per mano, percorsero il sentiero degli innamorati e una volta in fondo attraversarono il campo bianco di Brina. Perché la neve era troppo alta per prendere la scorciatoia del bosco. Anche se era sinceramente dispiaciuta per Minnie May, ad Anna non sfuggì certo l'aspetto romantico di ciò che stava succedendo e la gioia di poterlo condividere con la sua amica del cuore. La notte era limpida e freddissima, colma di ombre d'ebano e di candidi pendii di neve argentea. Le stelle grandi ed estremamente luminose risplendevano sui campi silenziosi. Qua e là si stagliavano gli alti abeti dalle cime cupe, con i rami infarinati dai fiocchi e scossi dal vento sibilante. Anna si disse che, nonostante tutto, era un piacere trovarsi in mezzo a tutto quel mistero e a quella meraviglia insieme alla sua migliore amica, da cui era stata separata per tanto tempo. Minnie May aveva solo 3 anni ed era davvero molto malata. La piccola, sdraiata sul divanetto della cucina, aveva la febbre alta, era molto agitata e il suo respiro rauco si sentiva in tutta la casa. Mary Jo era una ragazza di origine francese, alta, piuttosto in carne e dal viso tondo che la signora Barry aveva chiamato perché si occupasse dei bambini durante la sua assenza, ma se ne stava lì sgomenta, del tutto incapace di decidere cosa fare né di farlo. Anna, svelta e sicura, si mise subito al lavoro. Confermo. Minnie May ha la laringite difterica, è un brutto caso, ma ho visto di peggio, ve lo assicuro. Allora, per cominciare, c'è bisogno di molta acqua calda. Caspita, Diana, nel bollitore ce n'è una tazza scarsa. Ecco, l'ho riempito. Mary Jo, metti un po' di legna nella stufa. Non offenderti, ma avresti potuto arrivarci da sola con un minimo di iniziativa. Ora spoglio la piccola e la metto a letto. Diana, cerca di recuperare qualche pezzuola di flanella. Io intanto le do una dose di sciroppo di pecacuana. Minnie May non lo inghiottì volentieri. Ma Anna non aveva allevato 3 coppie di gemelli per niente. Lo sciroppo andò giù, non solo quella, ma diverse altre volte nel corso di quella notte lunga e angosciante in cui le due ragazzine si diedero da fare con pazienza e coraggio per alleviare la sofferenza della bimba. E Mary Jo, sinceramente ansiosa di fare tutto ciò che poteva, mantenne sempre acceso un fuoco scoppiettante e scaldò sulla stufa più acqua di quanta ne sarebbe servita per curare un ospedale affollato di bambini ammalati di laringite. Erano già le 3 quando Matthew arrivò con il dottore. Per trovarne uno disponibile era stato costretto ad arrivare fino a Spencervale. Ma ormai l'emergenza era superata. Minnie May stava meglio e dormiva profondamente. Sono stata lì lì per perdere la speranza, raccontò Anna. La piccola continuava a peggiorare e a un certo punto era molto più grave di quanto non siano mai stati i gemelli degli Hammond, perfino gli ultimi due. Ho davvero avuto paura che morisse soffocata. Le ho fatto bere tutta l'ipecacuana che avevo nel flaccone e quando ha mandato giù l'ultima dose mi sono detta a Diana e Mary Jo no, perché non volevo farle preoccupare di più, ma a me stessa. Ho dovuto dirlo per forza, in qualche modo dovevo pur sfogarmi. Mi sono detta: questa è l'ultima speranza, ma ho paura che ce ne sarà proprio bisogno. Invece, dopo 3 minuti, Minnie May ha rigettato il catarro e ha cominciato a stare un po' meglio. Si immagini lei il mio sollievo, dottore, perché io non trovo le parole. Di sicuro lei sa che esistono cose impossibili da esprimere. Eh sì, lo so. Annuì il dottore, guardando Anna, come se di quella bambina così particolare stesse pensando cose che non si potevano esprimere. Più tardi, però, le riferì ai signori Barry. Quella ragazzina con i capelli rossi che vive dai Cuthbert è molto, molto capace. Ha effettivamente salvato la vita di vostra figlia. Devo dirlo, perché io sarei arrivato troppo tardi. Quindi, se non ci fosse stata lei, ha, secondo me, un'abilità e una presenza di spirito assolutamente insolite in una ragazzina della sua età. Non avevo mai visto negli occhi di nessuno la luce che c'era nei suoi mentre mi descriveva il caso e come lo aveva affrontato. Anna era tornata a casa nell'incantevole mattino invernale imbiancato dalla brina, con le palpebre pesanti per la mancanza di sonno, ma chiacchierando instancabilmente con Matthew, mentre attraversavano insieme il grande campo innevato e passavano sotto la volta scintillante formata dagli aceri che costeggiavano il sentiero degli innamorati. Oh, Matthew, non è una mattina meravigliosa? Sembra che il mondo sia appena stato creato da Dio per suo personale diletto, no? Quegli alberi sono talmente lievi che mi basterebbe un soffio per spazzarli via. Puff! Quanto sono felice di vivere in un mondo in cui esiste la brina. Tu no? E a questo punto sono anche contenta che la signora Hammond abbia avuto tutti quei gemelli, perché se non ci fossero stati loro io non avrei saputo curare Minnie May. Sono davvero pentita di essermela presa tanto con lei per i suoi figli, però, oh, Matthew, sapessi che sonno. Non so se ce la faccio ad andare a scuola. Mi sa che non riuscirei neanche a tenere gli occhi aperti. Sono così stordita dalla stanchezza, ma mi dispiace anche stare a casa, perché così, Gil, voglio dire, qualcun altro diventerà il primo della classe al posto mio oggi. E poi è molto difficile tornare in testa, anche se, certo, più una cosa è difficile da ottenere, maggiore è la soddisfazione che provi quando ce la fai, no? Beh, ecco, io dico che ce la farai senza problemi, le disse Matthew esaminando il faccino pallido di Anna e le ombre scure sotto gli occhi. Forza, va a letto e fatti una bella dormita. Per oggi mi occupo io di tutto. La bambina andò a sdraiarsi e dormì tanto profondamente e a lungo che il pomeriggio invernale, tinto di bianco e di rosa, era già inoltrato quando si svegliò e scese in cucina, dove Marilla, che nel frattempo era tornata a casa, stava lavorando a maglia. Oh, buongiorno! Hai visto il primo ministro? Le chiese subito Anna. Allora, com'era? Beh, non è certo diventato primo ministro per il suo bell'aspetto, rispose la donna. Ha un naso enorme quell'uomo, sapessi, però sa parlare, bisogna ammetterlo. Mi sono sentita fiera di essere conservatrice. Naturalmente Rachel Lynde, che è liberale, non l'ha apprezzato come me. La tua cena è nel forno, Anna, e puoi prendere anche qualche susina sciroppata in dispensa. Sarai affamata. Matthew mi ha raccontato di ieri notte. Devo dire che è stata una vera fortuna che tu sapessi cosa fare. Io, per esempio, non avrei saputo intervenire, perché non ho mai visto neanche un caso di laringite difterica. Aspetta, però, prima mangia, mi racconti dopo. Indovino dai tuoi occhi che hai un mucchio di cose da dire, ma tanto non vanno a male. A sua volta, Marilla aveva una cosa da dire alla bambina, ma temporeggiò, sapendo che se l'avesse fatto, l'eccitazione di Anna sarebbe schizzata alle stelle, ben oltre le questioni concrete dell'appetito o del cibo. Solo quando ebbe dato fondo alla ciotolina di susine, Marilla le disse: Senti, Anna, oggi pomeriggio è venuta la signora Barry. Le sarebbe piaciuto salutarti, ma non ho voluto svegliarti. Ha detto che hai salvato la vita alla sua Minnie May e che le dispiace di essere stata così dura con te per la storia del liquore di Ribes. Ha capito che non volevi far ubriacare sua figlia e spera che la perdonerai e tornerai a essere amica di Diana. Se vuoi, puoi andare da loro perché Diana non può uscire per via della brutta infreddatura che si è presa ieri notte. Ora, per l'amor del cielo, Anna Shirley, non spiccare il volo! Il richiamo era necessario perché immediatamente l'entusiasmo di Anna si scatenò e la bambina balzò in piedi, il volto illuminato dalla luce della fiamma dell'anima. Oh, Marilla, posso andare subito senza lavare i piatti? Li lavo appena torno, promesso, promesso, ma non posso piegarmi a un lavoro poco romantico come il lavaggio delle stoviglie sporche in un momento così esaltante. Sì, va bene, vai, acconsentì la donna con indulgenza. Anna Shirley, hai perso la ragione. Torna qui e mettiti addosso qualcosa. Ecco, è come parlare al vento. È scappata via senza scialle né cappello. Guardala là come corre attraverso il frutteto con i capelli al vento. Sarà un miracolo se non muore di freddo. Anna tornò a casa a passo di danza, saltellando tra i mucchi di neve nel tramonto violaceo dell'inverno. Lontano, a sud-ovest, la perla scintillante della prima stella della sera spiccava vibrante in un cielo screziato d'oro, pallido e rosa, che sovrastava le distese candide e le valli popolate di abeti già nell'ombra. Il suono argentino dei sonagli da slitta vibrava come un campanellino fatato nell'aria gelata, tra le colline innevate, ma quella musica non era più dolce del canto che Anna aveva sulle labbra e nel cuore. Di fronte a te c'è una persona perfettamente felice, Marilla, annunciò entrando in casa. Sono perfettamente felice. Sì, nonostante i capelli rossi. In questo momento la mia anima si innalza al di sopra dei capelli rossi. La signora Barry mi ha baciato piangendo e si è scusata moltissimo e ha detto che non potrà mai ripagarmi per ciò che ho fatto. Mi sono sentita terribilmente in imbarazzo, Marilla, ma le ho detto il più educatamente possibile, non nutro rancore nei suoi confronti, signora Barry. Le ripeto una volta per tutte che non avevo assolutamente intenzione di far ubriacare Diana. Di conseguenza stenderò un velo d'oblio sul passato. Ho trovato un modo piuttosto dignitoso per dirlo, vero, Marilla? Mi sono sentita molto magnanima, perché l'ho fatta arrossire ripagando il male con il bene. Poi Diana e io abbiamo trascorso una serata piacevolissima. Mi ha mostrato un nuovo punto all'uncinetto che le ha insegnato sua zia di Carmody. In tutta Avonlì non lo conosce nessuno a parte noi due e abbiamo giurato solennemente di non rivelare il segreto a nessuno. Diana mi ha dato un bellissimo biglietto con un tralcio di rose disegnato e il verso di una frase davvero poetica. Se mi vuoi bene quanto te ne voglio io, neppure la morte potrà dividerci. Ed è proprio così, Marilla, sai? Vogliamo chiedere al signor Phillips di farci sedere di nuovo in banco insieme. Gertie Pye può benissimo stare vicino a Minnie Andrews. Poi abbiamo preso un tè molto raffinato. La signora Barry ha tirato fuori il suo servizio di porcellana più bello, come se fossi un ospite di riguardo. Non ti dico quanto mi sono emozionata. Nessuno aveva mai usato il servizio buono per me prima. Abbiamo mangiato una torta di frutta, una torta semplice, sofficissima, ciambelle fritte e due tipi di marmellata. La signora Barry mi ha chiesto se gradivo un tè e ha detto: Pa, puoi passare i biscotti ad Anna? Deve essere stupendo diventare grandi, Marilla, se essere trattati come adulti è così piacevole. Di questo non sarei così sicura, disse lei con un breve sospiro. Beh, comunque, quando sarò grande, dichiarò Anna convinta, mi rivolgerò sempre alle bambine come se fossero adulte e non riderò sentendole usare parole pompose. So per esperienza quanto una semplice risata possa ferire i sentimenti. Dopo il tè, io e Diana abbiamo preparato delle caramelle morbide. Non sono venute tanto buone, d'altronde né io né lei le avevamo mai fatte prima. Diana mi ha lasciato a mescolare il caramello, mentre lei imburrava le teglie. Ma io mi sono distratta e l'ho fatto bruciare. E poi, quando le abbiamo messe sul ripiano a raffreddare, il gatto ha camminato su una delle teglie e abbiamo dovuto buttare via tutto. Però è stato divertente lo stesso. Quando sono andata via, la signora Barry mi ha invitato ad andare da loro ogni volta che voglio e Diana è rimasta dietro la finestra a lanciarmi baci fino alla fine del sentiero degli innamorati. Guarda, Marilla, stasera ho una gran voglia di pregare e inventerò una preghiera nuova di zecca per festeggiare. Capitolo 19. Uno spettacolo, una catastrofe e una confessione. Marilla, scusa, posso fare un salto da Diana? Ci metto solo un minuto, chiese Anna una sera di febbraio scendendo di corsa dal piano di sopra. Non vedo che motivo ci sia di uscire quando è buio, ribatté secca la donna. Tu e Diana siete tornate da scuola insieme e siete rimaste fuori nella neve ancora per mezz'ora, con quelle due lingue in movimento perenne. Quindi non c'è tutto questo bisogno di vederla di nuovo. Ma è lei che ha bisogno di me, spiegò Anna. Deve dirmi una cosa importantissima. Ah sì? E come fai a saperlo? Mi ha lanciato un segnale dalla finestra. Usiamo un sistema di segnalazione con le candele e un pezzo di cartone. Basta mettere la candela sul davanzale e rendere la luce intermittente, nascondendo la fiamma con il cartoncino. A ogni messaggio corrisponde un certo numero di lampi luminosi. L'idea è venuta a me, sai, Marilla? Ah, poco ma sicuro, ribatté la donna con enfasi. Figurarsi, prima o poi darete fuoco alle tende con questa sciocchezza dei segnali, garantito. Oh no, stiamo attentissime, Marilla. Sapessi com'è bello e poi utile. Due lampi vogliono dire ci sei? Tre significano sì e quattro no. Cinque vogliono dire vieni appena puoi perché ho una cosa importante da dirti. Capisci? Diana ha appena fatto cinque lampi e io non sto più nella pelle dalla curiosità. Beh, non occorre soffrire ancora. Taglio corto, Marilla sarcastica. Puoi andare, ma devi essere qui al massimo entro 10 minuti, non dimenticarlo. Anna se lo ricordò e tornò nei tempi stabiliti, anche se mai nessun mortale saprà quanto le costò ridurre la discussione sulle importanti rivelazioni di Diana con gli striminziti 10 minuti, ma li sfruttò fino all'ultimo secondo. Marilla, ti prego, dimmi subito cosa ne pensi. Allora, domani Diana compie gli anni, hai presente? Ecco, la signora Barry ha detto che dopo la scuola potrei fermarmi a dormire da loro. Domani su una grande slitta coperta arrivano anche i suoi cugini di Newbridge per andare allo spettacolo del circolo culturale che si terrà nella sala del municipio la sera e vogliono portare anche Diana e me. Naturalmente, se tu sei d'accordo, posso andarci, vero Marilla? Oh, sono così emozionata. Allora vedi di calmarti alla svelta, perché tanto non ci vai. È meglio che tu stia a casa a dormire, nel tuo letto. Per quanto riguarda lo spettacolo, sono tutte stupidaggini. Le bambine della tua età non dovrebbero avere il permesso di frequentare certi posti. Ma di sicuro il circolo culturale è un posto rispettabile, gemette Anna. Non dico di no, ma non mi sogno neanche lontanamente di lasciarti vagare per spettacoli in piena notte. Non sono cose da bambini, anzi mi meraviglio della signora Barry che permette a sua figlia di andarci. Ma è un'occasione speciale, provò a insistere la bambina con gli occhi pieni di lacrime. Diana compie gli anni solo una volta l'anno. Il compleanno di una persona non è una data qualsiasi, Marilla. Prissy Andrews reciterà che il coprifuoco taccia questa notte. È un brano di grande spessore morale, Marilla, e sento proprio che mi farebbe bene ascoltarlo. E poi il coro intonerà quattro canti stupendi e sono quasi come inni. Ah, e poi ci sarà anche il pastore. Sul serio, è previsto che faccia un saluto? Sarà come un piccolo sermone, no? Ti prego, Marilla, per piacere, lasciami andare. Anna, non ci senti bene per caso? Ti ho già risposto. Adesso levati gli scarponcini e fila a letto, che sono le 8 passate. C'è solo un'altra cosa, Marilla, riprese la bambina come se tirasse fuori solo allora l'asso nella manica. La signora Barry ha detto che Diana e io potremmo dormire insieme nella camera degli ospiti. Ci pensi che onore sarebbe per la tua piccola Anna dormire nella stanza più importante? Beh, è un onore a cui dovrai rinunciare. Vai a dormire, ho detto, non voglio sentire un'altra parola. Quando Anna, avvilita e con le guance rigate di lacrime, fu salita al piano di sopra, Matthew, che nel corso di tutta la discussione era sembrato profondamente addormentato sul divano, aprì gli occhi e dichiarò convinto: Beh, ecco, Marilla, secondo me dovresti lasciarla andare. No, ribatté lei. Chi si occupa dell'educazione della bambina, Matthew? Tu o io? Beh, ecco, tu, riconobbe il fratello. Allora, non interferire. Beh, ecco, non sto interferendo. Avere un'opinione non significa interferire. E la mia opinione è che dovresti lasciarla andare. Oh. Se fosse per te dovrei permetterle perfino di andare sulla luna se me lo chiedesse. Questo è poco ma sicuro, fu l'amabile replica di Marilla. L'avrei lasciata dormire da Diana se tutto si fosse limitato a quello, ma non approvo quest'idea dello spettacolo. Se ci andasse come minimo si prenderebbe un raffreddore, per non parlare di tutte le idee assurde che le frullerebbero in testa. Ne sarebbe scombussolata per una settimana almeno. Ormai la conosco bene, so meglio di te che cosa è adatto a lei e cosa no. Ma io rimango dell'idea che dovresti lasciarla andare, ribadì l'uomo con fermezza. Non era un chiacchierone, Matthew, ma quando era convinto di una cosa sapeva difendere con caparbietà le proprie opinioni. Marilla sospirò, sconfortata, e si chiuse in un silenzio irritato. Il mattino dopo, mentre Anna lavava i piatti della colazione, Matthew, pronto a uscire per andare nel fienile, si fermò e tornò alla carica con la sorella. Io credo proprio che dovresti darle il permesso di andare, Marilla. Per un attimo il volto della donna disse cose che non si potevano esprimere a voce alta. Poi Marilla decise di cedere e replicò acida: Va bene, allora la lasceremo andare, visto che ci tieni tanto. Anna schizzò fuori dalla dispensa con lo straccio gocciolante in mano. Oh, Marilla, Marilla, ripeti queste parole meravigliose. Se vuoi la mia opinione, pronunciarle una volta basta e avanza. Comunque è tutta opera di Matthew e io non voglio saperne più niente. Se ti prendi una polmonite a dormire in un letto che non è il tuo, o uscendo al freddo in piena notte da una sala troppo calda, poi non dare la colpa a me. Rivolgiti a Matthew, Anna Shirley. Stai facendo sgocciolare acqua su tutto il pavimento. Oh, santa pazienza! Non ho mai visto una bambina più sbadata. Sì, lo so che per te sono un peso gravoso, Marilla, disse Anna avvilita. Faccio tanti errori, però pensa a tutti quelli che non faccio, anche se potrei. Vado subito a prendere un po' di sabbia e prima di andare a scuola do una bella strofinata e faccio sparire tutte le macchie. Oh, Marilla, sapessi quanta voglia ho di andare allo spettacolo? Non ho mai assistito neanche a uno spettacolo in vita mia e a scuola mi sento esclusa quando le altre ragazze ne parlano. Tu non immagini come ci si può stare male, invece. Però Matthew sì. Matthew mi capisce, sentirsi compresi è molto bello, Marilla. Quel mattino Anna era troppo agitata ed emozionata per riuscire a concentrarsi sui compiti. Così Gilbert Blythe la superò in ortografia e la batté di gran lunga in velocità nella gara di calcolo a mente. Ma il senso di umiliazione che Anna provò in seguito alla doppia sconfitta fu molto attenuato dalla prospettiva dello spettacolo e della notte da trascorrere a casa dell'amica, nella stanza degli ospiti. Lei e Diana quel giorno non fecero che parlare dell'evento, e se avessero avuto un insegnante più severo del signor Phillips, di sicuro il castigo sarebbe stato memorabile. Anna ebbe la conferma che non avrebbe mai potuto sopportare lo smacco se non fosse andata allo spettacolo, perché quel giorno a scuola non si parlò d'altro. Il circolo culturale di Avonlea si riuniva ogni 15 giorni per tutto l'inverno e nel corso della stagione organizzava spesso piccoli svaghi gratuiti. Ma quella serata era un evento in grande stile, con tanto di biglietto d'ingresso al costo di 10 centesimi per raccogliere fondi per la biblioteca. I giovani di Avonlea stavano provando da settimane ed erano interessati anche gli scolari, perché i fratelli e le sorelle maggiori di tutti avrebbero partecipato allo spettacolo. Fra gli alunni della scuola, tutti quelli sopra i 9 anni sarebbero stati presenti alla serata. Tutti, tranne che Harry Sloane, il cui padre la pensava come Marilla sull'eventualità di permettere alle bambine di uscire la sera. E così la povera Carrie passò il pomeriggio a piangere, nascosta dietro il libro di grammatica, convinta che una vita come la sua non era degna di essere vissuta. Per Anna, la vera goduria cominciò all'uscita da scuola. Da quel momento fu tutto un crescendo che la portò a raggiungere l'estasi durante lo spettacolo. Il tè quella sera fu raffinatissimo. Dopodiché, nella cameretta di Diana, al piano superiore, si svolse il delizioso rito della vestizione. Diana fece i riccioli sulla fronte di Anna, secondo il nuovo stile Pompadour, mentre Anna sistemò a meraviglia tutti i nastrini di Diana, cosa che le riusciva particolarmente bene. Poi provarono almeno 5 o 6 modi diversi per raccogliere i capelli e finalmente furono pronte entrambe, con le guance rosse e gli occhi luminosi per l'emozione. Certo, Anna non poté evitare una piccola fitta di dispiacere quando confrontò il proprio semplice berretto nero e il cappottino di panno grigio cucito in casa, dritto e con le maniche strette, con il grazioso cappellino bordato di pelliccia e l'elegante giacchina di Diana. Ma fu pronta a ricordarsi che era dotata di una notevole capacità di immaginazione e che la sapeva sfruttare sempre al meglio. Poi arrivarono da Newbridge i cugini di Diana, i Murray. Tutti insieme si strinsero nella grande slitta, tra paglia e coperte di pelliccia, per proteggersi dal freddo. Anna si godette la corsa fino al municipio. I pattini della slitta scivolavano sulle strade lisce come seta, facendo crocchiare la neve. Il tramonto fu uno spettacolo da lasciare senza fiato. Le colline innevate e le profonde acque blu del golfo di St. Lawrence risplendevano come una smisurata coppa di perle e zaffiri, piena di fiamme e vino rosso. Ovunque si sentivano i trilli dei campanelli delle slitte e risate in lontananza che facevano pensare a gioiosi scoppi di risa degli elfi dei boschi. «Oh, Diana!» sussurrò Anna stringendo la mano guantata dell'amica sotto la coperta di pelliccia. Non ti sembra di vivere in un sogno meraviglioso? Guardami, la mia faccia è sempre la stessa. Mi sento così diversa. Ho la sensazione che lo si noti anche nell'aspetto. Sei stupenda, le rispose Diana, che aveva appena ricevuto un complimento da un cugino e sentiva di doverlo trasmettere a qualcun altro. Hai un incarnato adorabile. Il programma della serata fu punteggiato da emozionanti fremiti, o meglio, lo fu per una delle spettatrici in particolare e, assicurò Anna a Diana, ognuno di quei brividi fu più entusiasmante di quello che l'aveva preceduto. Quando Prissy Andrews, con un corpetto di seta rosa cucito proprio per l'occasione, un filo di perle intorno al collo candido e garofani freschi appuntati tra i capelli, in giro si mormorava che il signor Phillips li avesse ordinati per lei in città, ascese la viscida scala, cupa e priva di un raggio di luce, Anna fu percorsa da un fremito di appassionata partecipazione. Quando il coro intonò Là, sopra le dolci margherite, Anna alzò lo sguardo verso il soffitto come se fosse affrescato con figure di angeli meravigliosi. Quando Sam Sloane si mise a raccontare e mimare come Socri mise a posto la gallina, Anna rise tanto che i suoi vicini la imitarono, più per simpatia nei suoi confronti che per quella storiella banale, già sentita fino allo sfinimento perfino ad Avonlea. E quando il signor Phillips declamò l'orazione di Marco Antonio sul cadavere di Cesare, con voce e gesti a dir poco toccanti, accompagnati da un romantico sguardo a Prisiendrius alla fine di ogni verso, Anna ebbe la sensazione che sarebbe balzata in piedi per partecipare all'insurrezione, seduta stante, se solo un cittadino romano avesse dato il via alla rivolta. Una sola fra le esibizioni in programma non fu degnata della minima attenzione. Appena Gilbert Blythe salì sul palco per recitare Bingen sul Reno, Anna prese il libro della biblioteca di Rhoda Amray e lesse fino a quando il compagno di classe non fu alla fine. Poi rimase seduta immobile e impettita, mentre Diana applaudiva con entusiasmo. Tornarono a casa alle 11 quella sera, soddisfatte e felici, ma pregustando già il delizioso piacere di ricordare e riparlare al più presto dello spettacolo appena visto. Sembrava che in casa tutti dormissero, tutto era immerso nel buio e nel silenzio. Anna e Diana entrarono in punta di piedi nel soggiorno, lungo e stretto, su cui si apriva la porta della camera degli ospiti. C'era un piacevole tepore e le braci del camino illuminavano debolmente la stanza. «Stiamo qui a svestirci», propose Diana. «Si sta bene al caldo». «Che serata stupenda!» sospirò Anna, entusiasta. «Deve essere davvero bellissimo salire sul palco a recitare. Pensa se lo proponessero anche a noi. Secondo te può succedere, Diana?» «Sì, certo, un giorno o l'altro. Invitano sempre gli allievi più grandi a recitare nello spettacolo. Gilbert Blythe l'ha già fatto tante volte. In fondo ha solo 2 anni più di noi. Oh, Anna, ma come hai fatto a fingere di non ascoltarlo? Quando ha recitato il verso che dice «C'è un'altra e non è una sorella», ha guardato proprio te». «Diana», ribatté lei sussiegosa, «tu sei la mia amica del cuore, ma neanche a te permetto di parlarmi di quello lì. Sei pronta per andare a letto? Facciamo una gara, dai, e vediamo chi arriva prima». A Diana l'idea piacque. Le due ragazzine, in camicia da notte bianca, attraversarono di corsa il soggiorno, si infilarono al volo nel varco della porta e atterrarono insieme sul letto della camera degli ospiti. Istantaneamente ci furono un movimento, un sussulto, un grido e una voce soffocata bofonchiò: «Bontà divina!» Anna e Diana non seppero mai come fossero riuscite a saltar giù dal letto e a schizzare come lampi fuori dalla stanza. Ma dopo una fuga disperata si ritrovarono a salire in punta di piedi al piano di sopra, tremando di paura. «Oh, ma chi era? Che cos'era?» sussurrò Anna, battendo i denti per il freddo e lo spavento. «Era zia Josephine», spiegò Diana, che invece non riusciva a smettere di ridere. «Oh, Anna, era zia Josephine. Chissà perché era nel nostro letto. Figurati, sarai inferocita. È terribile, davvero terribile. Ti era mai capitata una cosa più ridicola di questa, Anna?» «Ma chi è questa zia Josephine?» «È la zia di mio padre, abita a Charlottetown. È una vecchia decrepita. Fai conto che avrà come minimo 70 anni e dubito che sia mai stata una bambina. Sapevamo che sarebbe venuta a trovarci, ma non così presto. È una donna che tiene moltissimo alle buone maniere, quindi ci sgriderà parecchio per quello che abbiamo fatto, te lo posso garantire. Comunque, ci tocca dormire insieme a Minnie May e non puoi immaginare quanto scalci di notte mia sorella». Il mattino seguente, a colazione, la signorina Josephine non si fece vedere. La signora Barry rivolse un sorriso gentile alle due bambine. «Allora, ieri sera vi siete divertite? Volevo aspettarvi sveglia per avvertirvi che era arrivata zia Josephine e dovevate dormire di sopra, ma ero talmente stanca che mi sono addormentata senza accorgermene. Diana, spero che tu non abbia disturbato la zia». La bambina fu discreta e tacque, ma lei e Anna si scambiarono sguardi eloquenti, pieni di ilarità e sensi di colpa da una parte all'altra del tavolo. Dopo colazione, Anna tornò subito a casa. Perciò non seppe nulla del caos che si era scatenato a casa Barry fino al tardo pomeriggio di quel giorno, quando andò dalla signora Linde a fare una piccola commissione per conto di Marilla. Allora? Ho saputo che ieri notte tu e la tua amica Diana avete quasi fatto di morire di paura la vecchia signorina Barry, disse severa la signora Linde con un lampo divertito negli occhi. La madre di Diana è passata poco fa, mentre andava a Carmody. Era molto preoccupata per questa faccenda, perché pare che stamattina la vecchia signorina Barry si sia svegliata di pessimo umore. E i malumori di Josephine non sono uno scherzo, te lo dico io. Pensa che non ha neanche rivolto la parola a Diana. Ma non è stata colpa di Diana, spiegò Anna avvilita. È stata tutta colpa mia. Sono io che le ho proposto di fare una gara a chi raggiungeva il letto per prima. Lo sapevo, sbottò la signora Linde trionfante per averci azzeccato. Ero sicura che quella era un'idea uscita dalla tua testa. Beh, ti informo che hai combinato un gran pasticcio. La vecchia zia, che avrebbe dovuto fermarsi per un mese, ora sostiene che non intende fermarsi neppure un altro giorno e pretende di tornare in città già domani, anche se è domenica. Se ne sarebbe andata addirittura oggi se qualcuno avesse potuto accompagnarla. Aveva promesso di pagare 3 mesi di lezioni di musica per Diana, ma adesso ha deciso di non fare più nulla per quella screanzata. Mi sa proprio che hanno avuto una mattina piuttosto agitata. I Barry saranno a pezzi. La vecchia zia è ricca e loro ci tengono a restare in buoni rapporti con lei. Certo, la signora Barry non l'ha messa proprio così, ma io so giudicare bene la natura umana e ci sono arrivata da sola. Oh, signora Linde, sono così sfortunata, gemette Anna. Mi caccio sempre in guai assurdi e ci trascino anche i miei migliori amici, quelli per cui sarei disposta a buttarmi nel fuoco. Ma perché? Lei lo sa. Il tuo problema è che sei troppo impulsiva. Non ti fermi mai a riflettere. Qualsiasi cosa ti salti in mente, la dici e la fai, senza pensarci 2 volte. Ma è la cosa più bella, obiettò la bambina. Quando ti viene in mente una cosa emozionante, devi farla subito, per forza. Se ti fermi a pensarci, la rovini ed è persa per sempre. A lei non è mai capitato di sentirsi così, signora Linde? No, non le era mai successo. Quindi la donna scosse il capo. Devi imparare a riflettere un po' di più, Anna, nient'altro. E devi ricordarti sempre il proverbio guarda prima di saltare, soprattutto sui letti nelle stanze degli ospiti altrui. La donna scoppiò a ridere, soddisfatta della battuta, mentre la bambina rimase immersa nei suoi pensieri. Non ci trovava niente da ridire. Uscita dalla casa della signora Linde, si recò immediatamente a Orchard Slope, attraverso i campi coperti di brina. Diana le andò incontro alla porta della cucina. Tua zia Josephine è molto arrabbiata, vero? Bisbigliò Anna. Eh sì, confermò Diana, trattenendo una risatina, ma lanciandosi un'occhiata alle spalle verso la porta chiusa del soggiorno. Oh, Anna, avresti dovuto vederla! Saltellava dalla rabbia, figurati! Non sai quanto mi ha sgridata! Ha detto che sono la bambina più maleducata che abbia mai conosciuto e che i miei genitori dovrebbero vergognarsi per come mi hanno cresciuta. Poi ha aggiunto che non voleva restare un minuto di più in questa casa. A me non importa, anzi, ma ai miei sì. Perché non le hai spiegato che è stata colpa mia? Volle sapere Anna. Ma scusa, ti pare che farei una cosa del genere? Ribatté Diana piccata. Anna Shirley, guarda che io non sono una bugiarda. E comunque la colpa è stata di tutte e due. Allora glielo dico io, tagliò corto Anna. Diana la guardò con gli occhi sgranati. Anna Shirley, non puoi. Lei ti mangerà viva. Oh, non farmi venire più paura di quanta ne abbia già, gemette l'altra. Sarei più contenta di mettermi davanti a un cannone. Però mi tocca, Diana. La colpa è mia e devo confessare. Per fortuna, nelle confessioni sono piuttosto allenata. Beh, la zia è di là, in soggiorno, disse l'amica. Se vuoi, entra. Ma io non mi azzarderei, anche perché secondo me sarà un sacrificio inutile. Dopo quell'incoraggiamento, Anna andò dritta verso la tana del lupo. Insomma, raggiunse a passi decisi la porta del soggiorno e bussò piano. Subito si sentì un secco «Avanti!». La signorina Josephine Barry era magra, impettita e sussiegosa, intenta a sferruzzare come una furia, seduta vicino al camino. L'arrabbiatura non le era passata, e attraverso la montatura dorata degli occhiali i suoi occhi mandavano lampi. Si voltò, convinta che fosse entrata Diana, e invece si trovò davanti una ragazzina pallida, con due occhioni enormi pieni di un coraggio disperato misto a un terrore paralizzante. «E tu chi saresti?» domandò la vecchia zitella in tono sgarbato. «Sono Anna di Green Gables», rispose la bambina con la voce che tremava e le mani giunte nel gesto che le era tipico. «E sono venuta a confessare, se mi permette». «A confessare cosa?» «Che è colpa mia se ieri notte siamo saltate nel letto e le siamo cadute addosso, signorina. L'idea è stata mia. A Diana non sarebbe mai passato per la mente, ne sono assolutamente sicura. È una bambina molto educata, signorina Barry, perciò deve capire che non è proprio giusto dare la colpa a lei». «Ah, io devo capire. Però Diana era con te e ha saltato, se non sbaglio. Non è accettabile un comportamento simile in una casa di tutto rispetto». «Volevamo solo divertirci», provò a insistere Anna. «E adesso che ci siamo scusate, signorina Barry, io dico che lei dovrebbe perdonarci. Diana, quantomeno, in modo che possa andare a lezioni di musica. Ci teneva così tanto a quelle lezioni, sa? E io so bene com'è brutto desiderare una cosa e non riuscire a ottenerla. Se deve proprio infuriarsi con qualcuno, se la prenda con me. Un tempo ero abituata a vivere in mezzo a gente che se la prendeva con me, per qualsiasi cosa, quindi posso sopportarlo, meglio di Diana, che non è allenata». La furia sdegnosa negli occhi dell'anziana signorina si era quasi spenta, sostituita in gran parte da un lampo di divertita curiosità. Ma la donna ribatté con severità. «Sostenere che vi stavate solo divertendo non mi sembra una scusa adeguata. Ai miei tempi le ragazzine non si divertivano con giochi così sciocchi. Non hai idea di quanto possa essere fastidioso e sgradevole essere svegliate da un sonno profondo dopo un viaggio lungo e faticoso da due stupidelle che ti piombano addosso». «Non lo so, ma posso immaginarlo», disse Anna convinta. «Deve essere stato estremamente spiacevole, non ne dubito. Ma provi a considerare le cose anche dal nostro punto di vista. Lei, signorina Barry, ce l'ha un po' di fantasia?» «Se sì, provi a mettersi nei nostri panni. Io e Diana eravamo convinte che in quel letto non ci fosse nessuno. Sa che spavento anche per noi. Per giunta ci siamo sentite molto a disagio e non abbiamo nemmeno potuto dormire nella camera degli ospiti quando la mamma di Diana ce l'aveva promesso. A lei probabilmente ci è abituata e non le importa, ma immagini come si sentirebbe se fosse una povera orfana che nemmeno una volta in tutta la sua vita ha potuto godersi un simile onore». Fu lì che la rabbia dell'anziana zia Zitella si sciolse come neve al sole. Non solo la signorina Barry scoppiò letteralmente a ridere e, sentendola, Diana, che era rimasta in attesa in silenzio e tormentata dall'ansia nella cucina accanto, si lasciò sfuggire un sospiro di sollievo. «Ho paura che la mia immaginazione sia un tantino arrugginita, perché è tanto che non la uso», ammise zia Josephine. «Devo riconoscere però che la tua richiesta di comprensione è legittima almeno quanto la mia. Certo, tutto dipende dal punto di vista. Beh, adesso siediti qui e parlami un po' di te». «Oh, sono molto spiacente, signorina, però non posso», replicò Anna con fermezza. «Mi piacerebbe, sa, perché lei mi sembra una persona davvero interessante e non escludo che potrebbe addirittura rivelarsi uno spirito affine, anche se a prima vista non pare proprio. Ma è mio dovere tornare a casa dalla signorina Marilla Cuthbert. Marilla Cuthbert è una signora molto gentile che si è presa l'incarico di tirarmi su dritta, il che è piuttosto gravoso, anche se lei fa davvero del suo meglio. Non deve considerarla responsabile del mio salto sul letto. In ogni caso, prima che io me ne vada, vorrei tanto sapere se ha deciso di perdonare Diana e di restare qui ad Avonlea per il tempo che prevedeva prima». «Può darsi, se tu mi prometti che ogni tanto verrai fare due chiacchiere con me», acconsentì l'anziana signorina. Quella sera, zia Josephine regalò a Diana un braccialetto d'argento e comunicò al nipote e alla moglie che aveva disfatto le valigie. «Ho deciso di restare, solo perché desidero conoscere meglio quella bambina, la piccola Anna», disse con la franchezza che la contraddistingueva. «Mi diverte tantissimo, e alla mia età incontrare persone capaci di farti divertire è cosa più unica che rara». Quando fu informata di tutta la storia, l'unico commento di Marilla in proposito fu un «Io l'avevo detto», rivolto a Matthew. Alla fine, la signorina Barry rimase per oltre un mese e si rivelò un ospite più gradevole del solito, grazie ad Anna che la metteva di buon umore. La donna anziana e la ragazzina diventarono grandi amiche, e quando partì, Zia Josephine le disse: Anna, mi raccomando, se ti capitasse di venire in città, passa a trovarmi. Il posto d'onore nella camera degli ospiti è tuo. In fondo, la signorina Barry è uno spirito affine al mio, confidò Anna a Marilla. A guardarla non si direbbe, ma lo è. Non succede sempre a prima vista, come mi è capitato con Matthew, ma dopo un po' si capisce. Gli spiriti affini non sono poi così rari. È fantastico sapere che nel mondo ce ne sono tanti.